esto, aquí está un poquito mejor la señora ya. Oye, pues venga esto, ¿qué ha hecho ahí? ¿Está en New Jersey? Habíamos realizado a no costa. Que mucho ruido, casi no coge el coseño ahí. ¡Coseño! ¡Coseño! ¿Dónde va? Que tiene buenas condiciones. Lo va a cambiar a 500 para poder ir a viajar con el trabajo. Hay mucho ruido ahí. ¿Dónde le está mejor? ¡Me llama! ¡Viajando! Qualcuno sul canale 10. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno, cambio. Ciao Gianni, ci sono io, ma sto facendo cosa qua in camera. Via, ciao Gabi. Ciao Gianni, ben sentito, buonasera. Via, buonasera anche a te, dai. Come lei, sono qua, se entra qualcuno, se no spengo e faccio altro. Ah no, già ci sono io, guarda, io ho mezz'oretta e dovrei essere a posto. Sto sistemando dei cavi. Beh, mettono in ordine più cavi perché ho fatto una modifica all'impianto e sto sistemando. Come mi ascolti già? Bene. Sei positivo. Anche come amplificatore il microfono? Sì, sì. Sei positivo. Beh, mi sistemo un po' di... mi fascetto un po' di roba già. Ciccia. E poi entro. E fai, non sta facendo lavoro di lì a Sassari? Ma che cazzo, sta Gancarazzi, se ha fatto quella grandine, non so se la neve a grani o grandine, ma mi è entrato un pezzo nel collo, mi ha fatto venire i brividi. Sì, no, anche qua, e infatti i cani stanotte me li tengo dentro, perché sicuramente scendono molto le temperature, dopo mi preparerò anche qualche cosa emotiva per le batterie sia del furgone che della macchina, perché queste temperature qua, questi sbalzi fanno malissimo alle batterie. Già lo so, ce lo so che fanno male, ma io penso che a Ausilio ci sia la neve. Sì, c'è già, da Claudio c'è del rischio quindi era un po' più basso di oggi, però da c'è. Infatti dopo gli metto una cosa, le batterie, perché le brucia e questi sbalzi qua, domani fa mettere in moto la macchina, anche se nuova la batteria, anche tu già, se non c'hai garage, mettila, perché la macchina tua è nuova, perché te la brucia, a meno che non ce l'hai dentro l'abitacolo, però mettigliela, scendi un attimo, anche un pezzo di coperta, una cosa, però mettigliela perché battono, eh? Già lo so, sì, che è così, già lo so, più di una volta mi ha fottito. Sì, infatti dopo io prendo e me la metto, anzi. Adesso un attimino mollo e lo faccio adesso, perché sta calando il sole, cioè è già calato, però. Un po' di cosa c'è, dai. Sono 4 gradi, buonasera Gavino e Gianni. Ehi, ciao Carlo, ben sentito. 4 gradi è già temperatura di neve. E lasciamolo nevicare. Domani polenta. Domani mattina magari troviamo tutto bianco, te lo immagini? È probabile, io penso che il cielo è bello carico e ho visto che ogni tanto fa quella grandine leggera che sembra nevischio, capito? Quindi le condizioni sono quelle. Se scende un altro pochettino la temperatura e il cielo rimane coperto, continua a piovere, insomma, e molto probabilmente si trasforma in neve stanotte. Cappagatta, ma voi risentite questa propagazione che c'è? Io infatti ho lo squelce quasi al massimo, perché prima sentivano americani per qualche ora fa, l'ho acceso, poi l'ho spento, adesso l'ho acceso ed è ancora lo squelce alto. Sì, ma vediamo controllo tra l'altro QTH. Tu cosa, capito? Non ho capito perché vi siete sovramodulati con Carlo. Ho capito, non ho controllo di segnale autocopiata, già. Sì, 9.25, la radio 5, bella. Positivo, positivo, dai. Ciao Carlo, buonasera, buonasera, ben sentito. Sì, se continua, se diciamo scende, intanto scende, gli altri 2 gradi da adesso fino alle 21 scende. Secondo me stanotte se piove, non piove ma nevica. Sì, sì, probabilmente. Tony, se vuoi dirti la verità, io ti sento un po' col microfono un po' saturo, o è troppo amplificato. Segnale anche per me 9.20, però la radio non è perfettamente chiara e secondo me c'è troppa saturazione. Non lo so Carlo, già, guarda, ho attenuato un po' il back gain. Questo passaggio ha migliorato parecchio, non lo sento chiaro a Carlo, non lo so, magari dipende anche dall'apparecchio, io la sento bella forte ma chiara. Scusate, buonasera, non toccare niente Gavrino, non toccare niente, che meglio di così non si può uscire. Buonasera a tutti. Ciao Claudio, buonasera. Niente, avanti, che ti stavo dicendo, sono negativo o positivo? Ti ho mandato anche un WhatsApp, sì, 9.5, 9.10. Perfetto, dai. Dai, lasciamo così, dai, come ti ho detto poco fa, il Michigan a mezzogiorno. Quindi lasciamo tutto così. Buongiorno Sfocco Gianni, la radio è perfetta, 5 è perfetta, anch'io ti ascolto benissimo, col capo e stai andando bene, non toccare niente. Buonasera a tutti e buon proseguo di questo. Ciao Claudio. E beh, nevica, ce n'è da te. E ne rischio ancora, stanotte nevica qua, stanotte sarà un casino, vabbè, non me la fotte nulla, già c'ho fuori strada io. Però stanotte già nevica perché siamo a 3 gradi qua, se a Sassari ne avete 4, qua ce ne sono 3, abbasserà sicuramente a 2 e stanotte inoltrata sarà 1 grado, quindi ci sarà neve a tutto andare, ma già è cosa bella, dai. Ehi, ma oggi non ce n'è? Non lo vedo perché è completamente nebbia, non lo vedo io. Vabbè, dai, se vuoi restare siamo qua, se no buono quelli che si ascolto, dai. No, Gianni, fate pure, io c'ho il vizio oramai, mi sono abituato di ascoltarvi e di passare, di trasmettere da altre parti, però vi ascolto volentieri. Saluto a te, Carlo e Gavino, sono entrato esclusivamente perché mi ha mandato WhatsApp, volevo appunto vedere se era tutto a posto e te lo sto confermando qua. Quindi non toccare niente, 9.5, 9.10 il tuo segnale e con picchi positivi, la radio è super 5, perfetta, chiara e forte, ma te l'aveva già detto Gianni. Ciao di nuovo a tutti, buon proseguo di queste ore e prossime occasioni. Avanti Gavino. Sì, dai, no, lasciamo tutto così perché dai, abbiamo trovato il compromesso a strumento, quindi non bisogna toccare niente. Lo strumento fa la chiave, guardate Carlo per essere entrato, fatta la buona, è tutto positivo. E quindi Gianni. Vabbè, magari la ricezione che c'ha Carlo ti sente magari diversamente. Avanti Carlo. No, io per esempio Claudio lo sento chiaro, ciao Claudio. A Gianni lo sento chiarissimo, invece Gavino quando parla è troppo saturo. Infatti prima come ha toccato appena aveva migliorato tanto, ma poco, magari è quel tanto che me lo fa sentire così. Invece tutti gli altri li sento radio super 5, capito? Non posso dire che è così, io la sento così la radio di Gavino, capito? Non è che posso dire che la sento bene. Gianni lo sento chiaro, è lo stesso Claudio che esce forte, eccetera, ma arriva a bomba qua, e anche tu Gianni mi arrivi a bomba in fondo scala. Invece Gavino mi arriva con un segnale 9 più 10, però la radio è, non è chiara, capito? detto, e c'è un po' di quel problemino lì solo, ma si capisce chiaramente, non è che è incomprensibile, no, per carità, però non è pulita. Carlo, siccome ci sono degli accorgimenti da fare, però io parlo di accordo tra Potenza e il pilotaggio di amplificazione. E il martigheri può darsi che sia stato anche troppo alto, però si può anche attenuare, non è un problema. E quello riguarda più che altro la vicinanza tra me e il microfono, ma adesso un po' attenuato e dovrebbe essere una cosa un po' più comprensibile, però l'accordo tra microfono e radio è sempre una cosa che si può fare. Avevo problemi tra picchi positivi e picchi negativi in radio, perché queste sono un po' complicate, quindi ho trovato un compromesso al momento, ma il macchinino è sempre una cosa che ho preso delle attenuazioni, si può sempre modificare. Sì, già, la radio è quella, e purtroppo non ci si può fare niente, le potenze sono quelle, ciccia. Però per quanto riguarda il Mac Gain, uno può anche sempre regolare, perché l'amplificatore potrebbe essere anche un po' forte, quindi se i consigli sono sempre ben accetti, Carlo, dimmi, ho attenuato da te oppure sono ancora saturo? Segnale rimane sempre uguale, però come avevi regolato andava molto meglio, capito? Positivo, allora guarda, diciamo che la modulazione è questa qua, io non posso far più di tanto perché diciamo che sono quelli, la regolazione è quella, i picchi positivi sono sempre picchi positivi, non posso andare contro all'elettronica, quindi io devo lasciare il mondo come. Ce l'ho così, non è, te l'ho detto, a capire ti capisco, solo che se ti allontani la voce non è chiara, per dire Gianni che mi arriva a fondo scala proprio, e Claudio, cioè la voce è bella pulita, sento anche bene tutto chiaro da lontano, invece la tua la sento un po' satura, tranne come hai fatto prima, toccata appena andava bene, forse basta per la mia radio, magari non so se è un problema di audio qua, capito? E magari ho bisogno un po' di attenuazione, se no se per te va bene lasciarla così, lasciala pure così, per carità, va bene mera. Comunque io prima ero in Girella, da Viale Porto Torres, da quella zona lì, stavo rientrando a casa, pre Danieda, e ho guardato verso Osilo che si vedeva tutto chiaro, Santa Vittoria, San Lorenzo, neve non c'era niente ancora, anche se il cielo è molto carico, e vai Gianni. Eia, e io che ho le macchinette dei vigili che stanno riempendo tutta la serie di macchinette, invece devono fare i soldi, cavolo, quella zona lì Predanieda, zona di Canica, la zona della Budibuti, la strada di Sorso dove abita Gavino, di lì sono tutte piene di macchinette. Ma quando fa brutto tempo non credo che ne mettano, se c'è pioggia e insomma pioggia battente come fa, si rovinano quelle macchine se prendono acqua. E io l'altro giorno c'era una fila di macchine andando piano, mi sono messo in corsia di sorpasso, stavo sorpassando, a un certo punto mi rendo conto che c'era una macchinetta, ho rallentato e mi sono affiancato alla macchina che c'era a fianco a me, di modo che non mi abbigliassi. Anche se rimani nell'altra corsia, l'importante è che rallenti, capito? Tanto se tu eri affiancato no, non ti prende. No, ma poi già ce l'ho fatta rallentare, solo che ci sono quelle malassorte con la pistola che ti prendono a 150 metri, ma non era quella, era quella col cavalletto. Esatto, quella è fissa e loro puntano solo la corsia di marcia, capito? Però siccome l'hanno pubblicato anche sui giornali, eccetera, quindi la gente già sta camminando piano, ho visto. E tanto a me una volta sulla VTV mi hanno fregato, a 72 km nel limite di 50 mi hanno preso 3 punti della patente, più di... più mi hanno messo la multa, 180 euro. Anche perché diciamo che con le macchine che abbiamo adesso è impossibile andare a 50, capito? Ti tocca usare la quarta, la terza, perché come fai, capito? Io non dico che bisogna correre, però imporre questi limiti così bassi è un casino. A Milano addirittura vogliono fare 30 km all'ora. Sì, l'ho sentito Carlo che è così, l'ho sentito RDS che lo stavano dicendo. Come si fa? Blocchi tutto il traffico, nelle grandi città specialmente blocchi il traffico da quella velocità. Come fai? Avanti Gabino, Gabino deve essere impegnato. E purtroppo fatta la legge, trovato l'inganno, sempre così è stato. Quando va a 72 km orari non stai correndo, non sei a 220, no? Sei a 70 km orari e quasi ferma la macchina. Esatto, lì per esempio a Predanieta c'è il limite di 60, mi sa, in quel tratto lì dove c'è, come si chiama, la piazzetta, insomma, dove si mettono loro, in quel tratto è 60, perché quando c'era il pannello, quello che si illuminava al passaggio, ti indicava 60, rallenta, capito? E quindi penso sia così, e c'è tollerabilità di 10 dovrebbe essere, quindi se ti beccano a 70, entro i 70 non dovrebbero scattare le multe. A me 72 km, nel limite di 50. L'altro giorno, per dire, dove ti ho detto, era dall'altra parte, era praticamente dove c'è Bricocina, eccetera, eccetera, un po' più su. Ho capito, sì. E vabbè, basta, tanto in quelle zone è pieno di rotatori e quindi già si rallenta, non è che c'è il tanto di fare le corse, capito? Io già, quando passo io lì la mattina, passo alle 4:30, oppure la sera tardi rientrando, e a quell'ora già non ne trovo mai. Ma comunque anche io non è che cammini con la macchina, non sono di quelli che corrono con la macchina. In città sono abbastanza prudente, mi fermo, faccio passare i pedoni, tutte queste cose qua le faccio. Però purtroppo quando ti capita, non ti rendi conto nemmeno. Sì, perché loro, per esempio, tu mi hai detto che hai preso la multa a 72 km orari, però c'era il limite di 50, quindi se tu da 50 superi di 10, entro i 60 non scatta la multa, però tu eri 22 diciamo chilometri orari in più rispetto al limite, e quindi a quel punto, maledizione, ti hanno messo la cosa, la multa, e anche ti hanno tolto i punti, no? Esatto, 3 punti. Praticamente io l'ho vista all'ultimo momento la macchina, ho rallentato e sono riuscito a scendere a 50, però ci avevano la pistola e quella li prende a 150 metri di distanza, capito? Sì, esatto. E a me è capitato sulla quattro corsie, rientrando da Alghero, dal lavoro, e dopo il rifornitore verso Sassari, rientrando lì a un certo punto c'era un parcheggio e praticamente c'era una macchina davanti che stava camminando piano, sicuramente o gli avevano lampeggiato o aveva visto, e io, come hai detto tu prima, praticamente mi sono messo in corsia di sorpasso con la freccia, capito, per superarlo. Però quando mi sono reso conto che c'era l'autovelox della polizia, ma questo diversi mesi fa, a quest'ora mi sarebbe arrivata la multa, praticamente ero in faccia fase di sorpasso sarò stato a 100, non di più, e lì il limite era di 90 km orari, per cui non ho superato i 100 e quindi seppure hanno preso ero in regola, perché c'è il 10% di tollerabilità, capito? Per cui questo non dovrebbe far scattare la multa. Superi 30 km c'è il ritiro immediato della patente, immediato. Non si ricupera di nulla, ciao Natalia, si sente solo il televisore. E ho detto, se superi 30 km ti c'è il ritiro immediato della patente, fini la biglia di brutto. Meno male che ho la bicicletta, Natalia, poi pedalo. Ti voglio vedere andando al gare in bicicletta. Avvirumi, ti voglio vedere quando arrivi in bicicletta al gare. Per il codice della strada anche con quella non devi superare una certa velocità. Ma possono circolare su strade così tipo extraurbane? A volte ci vedo i ciclisti io, anche sulla quattro corsie. Penso le bici possano andare su tutte le strade, non credo che ci siano divieti. Ma vabbè, comunque Carlo, provaci. Con l'elettrica stai dicendo, ce la farà dare al ghero? Ha voglia, sì che ce la fa. Io con quella vado a Osilo, torno giù, capito, mi faccio il giro di tutto Sassari, rientro a casa, c'ho il 20% di batteria, riesco a farci anche 90 km con la batteria. Ah, buono. Poi quando arrivi all'aeroporto la metti in carica. Esatto, devi pedalare comunque, Gianni, non è che, anche se tutto pianeggiante lì, ma per fare diciamo 25 km Sassari aeroporto ci vorrà almeno un'oretta buona, Vabbè, infatti un'ora prima. L'estate sarebbe bello, no? E soprattutto quando esci alle 2 ti trovano sciolto nell'asfalto. Cavolo, io quella volta che ero al Ghero siamo tornati tardi, ero con la mia famiglia e siamo andati a mangiare la pizza e coso, e siamo stati in giro per Alghero. Sono andato a prendere praticamente lo svincolo per andare verso Sassari e c'era un'ambulanza che chiudeva la strada. Ho detto, ma qualcheduno è morto. Ed era quello praticamente che aveva perso la tipa dalla moto, che era caduta la moto e la macchina l'ha schiacciata. Sì, sì, ricordo. Comunque ciao Natalino, che si è entrato prima, forse non ti avevo salutato. Ciao Carlo. Andi piano in macchina. Di su Gianni, mi dici io non corro da alcuni. Se superi 30 km lì, a te ti hanno trovato 72. Se ti trovavano 80 te ne prendevano la patente. Io non sono al funerale, ragazzi, devo andare a 20 all'ora. Al funerale vado così io. Non è 70 km orari, non sono nulla, Natalì. Addirittura se tu vai a 50 si blocca il traffico di zona, di tutti i colori. Oi. Io se c'è 50 vado a 50, non hai capito? Il massimo io non me ne accorgo perché ho il piede tarato da quando facevo il camionista. A 80 ando al massimo, me ne accorgo guardando il contachilometri, più di 80 non ando, è automatica la cosa. Ma se andi 80 dove c'è i 50 devi bisogna battere subito. Sì, ma io ti sto dicendo dove c'è il limite di 50, io vado a 50 e non risupero. Ma cosa uso che tanto non mi ha muccia? Cattata lì, che tu fa vedi male che c'è una greffa che parli, non solo tu, che sente più il televisore di te. Aspetta che provo a abbassarlo. Ma sei troppo amplificato il microfono e prende tutti i rumori che ci sono sotto anche. E magari c'è anche il volume a manettone del televisore. No, è basso il volume. Adesso non senti più nulla, chissà perché. Perché ho messo il macchine a metà, così chiuso. Adesso va meglio, Natalì. Adesso ti senti tu almeno. Ho abbassato il macchine, perché poco fa ce l'avevo a manetta. Prende meno non spuri, capito? È un casino, eh. Vabbè, comunque deve essere il comune che ha bisogno di soldi e sta mettendo macchinette da tutte le parti, ha chiesto permessi all'ANAS per poter mettere i pali con la segnaletica e si ha messo macchinette da tutte le parti. Hanno bisogno di incassare, vuol dire. Molti comuni dove li hanno messe fisse, la gente che si è incattivita, che ha preso multe o che si è vista il ritiro della patente, ne ha buttato tutto a terra. Ehi, è già vero, sì sì, hanno rotto, proprio l'hanno rotto. Cioè, questo qui addirittura ha fatto osservazione ai vigili, io l'ho visto su internet e c'era filmato, vi sto filmando, voi vi dovete mettere in modo che vi vedano, non nascosti come siete messi, ma noi siamo in visione, no, non siete in visione, vi siete messi dietro una curva e poi praticamente all'interno di un parcheggio, quindi chi vi vede come tu fai la curva ti beccano, non è che... ha detto comunque io faccio ricorso perché voi lo sapete lavorare, questa qui è la terza volta che io sto andando a lavoro e mi becco la multa, non va bene questa cosa, gli ha detto, non va bene, siete contro i cittadini che stanno lavorando, stanno andando a lavorare. Infatti, esatto, no, la stradale quando fai i posti di controllo con l'autovelox, almeno in Sardegna, lo fa sapere, lo rende noto, perché se tu vuoi lo puoi controllare anche online e c'è il calendario proprio che ti dice tale giorno siamo in quella strada, tale altro giorno nell'altra, capito? In maniera tale che così la gente si regola, capito? Ma sai quanti incidenti ha causato questo autovelox? Se magari uno lo vede all'ultimo momento, frena di colpo, quello che c'è dietro gli si sbatte dietro e fanno tamponamenti a catena, è successo anche a furtottore. C'è stato un break forse sotto, Avanti, chi è il break? Vieni avanti, ti sento molto basso di radio, Ciao Dorugini. Di Claudio, ma segnale buono, ma la radio è molto molto bassa. Gianni, come lo senti? Io è già troppo che lo sento, proprio piccolo, piccolo, piccolo. Pensavo che fosse dall'America che stavo chiamando. Claudio, pone di sesto, che quella radio non sta andando, non c'è radio. Ma non va bene, no Claudio, non va bene, non sto uscendo bene di radio. Mettilo da parte, guidare un asso che esci bene, prendi il tempo. Così esci bene finalmente. Con quel che ti ho sentito bene, dai. A parte il fatto che ogni tanto usci un po' di frequenza, però magari non è una cosa tua che tocca a me. Però questo qui proprio ti sento bisbigliare, non capisco le parole a voi. Carlo, tu lo senti meglio, fammi da po'. Che hai ricevuto, Claudio? Sì, io già ti sento, ma devo proprio mettere l'orecchio per tirarti fuori. Il segnale è 9+20 e va bene, ma la radio è troppo bassa, sicuramente ha qualche problema al microfono, vedi un po'. Comunque già siamo qua facendo quattro chiacchiere, c'è Gianni Natalino in radio e Gavino che si deve essere spostato, niente dai, ci sentiamo nel caso in condizioni migliori più tardi, se entri ci fa piacere Claudio. Claudio, riprendi Natalino, ci sei? Già ci sono, io sono sempre qui, bisogna che a Claudio gli regalo questo microfono, almeno lo può mettere a manetta dove lui lì. E il macchino a manetta, allora vedrai che lo senti. Anche tu lo sentivi basso, vero Natale? No, io non lo sentivo per nulla. Ho modulato solo una volta bene con Claudio. Però eravamo in banda laterale, lì lo sentivo, vedi, in banda laterale arrivava un bijou e io lo stesso da lui. sì, ma anche in AM, guarda, Claudio arriva forte a Sassari, lo sente Gianni tranquillamente, immagino anche tu, è solo che non è capitato. Adesso è che stava provando una radio che deve, mi sa, ieri mi stava accennando, la deve scambiare, non so, e quindi voleva vedere in che condizioni usciva questa radio, stava facendo solo delle prove, ma Claudio già ne ha diverse di radio e ha detto che più tardi se sta facendo delle prove, quindi se finisce già entra dopo con la radio come si deve, quindi molto probabilmente lo sentirai pure, Natalia. Lui è bene con il Kevo, tutto basta, non sento con l'altra radio uscire bene, con il Kevo esce bene. E con quello l'ho sentito con l'850 in banda laterale, e cazzo, arrivava una schiaffettata qua, e io anche io da lui arrivavo bene, stavo usando un Icom io e lui stava usando il Kimbud e uscivamo benissimo tutti e due, però qua non lo sento addirittura, ma qualcuno è passato. Ti ho mandato, hai visto quello che pubblica la stradale, no? Nella regione Sardegna, e ti dà il calendario tutte le settimane di dove fanno i posti di controllo, tanto è un PDF, è solo un foglio, hai capito? E lì ti dice, tale giorno sono sulla 131 direzione Cagliari o sul versante di Nuoro oppure sulla 291 Sassari Alghero, capito? Quindi se tu te lo guardi, io ci ho salvato il sito, per cui praticamente entro e neanche sto a scaricare, mi guardo l'elenco e vedo un po' se magari la settimana che devo lavorare fanno posti di controllo sulla 4 corsie lì, no? Sulla 291. E in effetti quando c'è bel tempo rispettano sempre i posti di controllo, solamente quando piove molto allora niente, allora se era previsto salta, capito? Perché quando c'è pioggia non possono, non le mettono fuori le macchinette. E poi si bagnerebbero pure, stanno accucciati dentro le macchine. La macchinetta già va da sola. Sì, però si rovina con la pioggia, capito? Se prende acqua, perché comunque sono collegate elettricamente, capito? Avranno delle batterie oppure le collegano alla macchina, non ho idea, però sono apparecchiature costose, quindi avranno bisogno anche di lavorare bene all'asciutto in condizioni buone. E già se le ripagano in pochi giorni, con tutte le multe che fanno, 668 multe a Sassari in un anno, i vigili urbani. Sì, e molte sono. Devono mettere le fisse, le macchinette a ogni angolo, in modo che i pirati della strada, tipo Gianni Doppio Rum, li becchino sempre. Qua io una volta solo ho fatto un pezzo a 200 sulla 4 corsie per provare la macchina a gas quanto ce la faceva arrivare. Poi ho mollato e non ho più fatto di queste cose, ho solo provato. Delinquente. Allora, è un delinquente questo, e poi anche un briacone fragico, questo Gianni Doppio Rum. Bocchi rossi. E invece Natalino è un cuocuomane. Tu sei delinquente, pirata della strada e cuocuomane. Io l'educazione stradale che ho la vorrebbero molte persone. Gianni. Ma sì, sempre stato una vita a capita in controsenso. E allora. Ma guarda, io in tanti anni che ho lavorato non ho mai preso una multa, né col camion né col furgone, niente mai. Guarda, ti posso dire che a prendere una multa ce ne vuole, perché quando ti vedono che stai lavorando un po' ti devo l'occhio, ma quando non ne possono fare a meno proprio ti mettere il proprio debito di dare pianti la multa ai vigili e ai carabinieri. Almeno che non sei due ore fermo, no? Che non sei due ore fermo, dirà a me che io ci lavoro qui. Sono abbastanza flessibile in questo punto di vista. ci sono anche quelli disgraziati che te la mettono lo stesso la multa. Ui, quanti ne ho visto? E due minuti fermi lavorando gli mettevano la multa. Uno gli ha detto una volta, stava scaricando delle bibite, e questo qua gli ha detto, guardi che sto andando a scaricare delle bibite, faccio in fretta. E lui non gli ha manco risposto. Poi ti dico chi è il vigile. Non gli ha manco risposto. Ha preso, quando è uscito fuori si è trovato la busta attaccata. Ha detto, ah, gli avevo detto, lei faccia il suo lavoro, io faccio il mio. Lui si ha detto. Quello che c'ha, no, quello che c'ha il Vespone abita in via delle Vigne. Cosa usai? Quello lì. Beh, questo qui mi ha detto, l'ho trovato a mettere in tre giorni, tre multe mi ha messo. In tre giorni, questa ce l'aveva con me. Ma lui si è pigliato due mesi di cagnotta multiglini da poco. Una volta l'altra penso, ha pigliato due cagnotta multiglini da uno e... al buio, senza avere niente nessuno, e si è attizzicati e mi mancano due denti, anzi mi sembra che sono tre. E adesso farà bravo perché sta facendo anche una cosa di volontariato con l'ottore, se non so cosa, deve mettere barche, e l'ha preso e gli ha fatto perdere tre denti e ciccia. Sono toccati tre catagnoli a bocca, di notte, al buio, ma è passato il vizio, visto? E una volta, Fiori, tu non so se l'hai conosciuto, c'erano tutte le macchine parcheggiate in via Sacchetto dove ci sono i cinesi, la parte di dietro, praticamente è tutto terreno nostro, compresa quel marciapiede che c'è, tutto nostro, quello che è davanti al supermercato. È venuto Fiori e ha fatto le multe a tutti, ha fatto scappare tutti i clienti dal negozio, mio cognato si è incazzato, lei è uscito fuori e gli ha detto datemi tutti le multe. Ma se poi, no, datele a me le multe, non ci sono problemi. Ha preso la cartina del negozio, tutta la portata, la mappa del negozio, l'ha portata al comando e si è fatti tutti i cavalli multe. Ma come scopo?